veniti, la pelle tua e il sangue tuo è volare, in una marea di lacrime consola. Sopra la testa un'utopia che non...